Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 6 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta che vi presenterò oggi è involtini alla siciliana. Ingredienti per 4 persone. 8 fettine di fesa di vitello. 2 carciofi. 50 g di prosciutto crudo. Mezzo bicchiere di vino bianco, una cipolla tritata finemente, un cucchiaio di burro di sesamo, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, il succo di un limone, mezzo bicchiere di brodo vegetale, 2 cucchiai di farina bianca, sale e pepe. Preparazione. Pulite i carciofi, togliete foglie e le spine e scottateli per 5 minuti in acqua bollente, leggermente salata e con il succo di limone. Scolateli e lasciateli asciugare. Tritate intanto il prosciutto. Mettetelo in una terrina e impastate con un cucchiaio di burro di sesamo. Tagliate a spicchi i carciofi. Stendete sul tagliere la carne. Ponete su ogni fettina il composto e 2 spicchi di carciofo. Salate e pepate leggermente, arrotolate e legate gli involtini e passateli nella farina. Mettete l'olio in un tegame, fate imbiondire la cipolla e a questo punto unite gli involtini. Lasciate dorare ad ogni parte. Continuate a cuocere a fiamma bassa, aggiungendo, se occorre, un po' di brodo. Una volta ben cotti, ponete gli involtini in un piatto di servizio e caldi portate subito in tavola. Buon appetito! Vini consigliati: Rocche di Rao Rosso, Sicilia, a 18 gradi. Solo Paca Rosso, Campania, a 18 gradi. Chianti delle colline pisane, Toscana, a 18 gradi anche questo. Questa era la puntata numero 6 e io sono Fabiola e vi ho presentato A Tavola con Fabiola.